24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci qua con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Eccoci qua di nuovo, buona giornata. Buona giornata. Allora, come preannunciato prima, oggi torniamo a parlare delle norme antiriciclaggio, norme molto, molto interessanti, in particolare ci concentreremo sugli assegni. Insomma. Sì, ci concentriamo sugli assegni ricordando un po' quello che è successo un anno fa, esattamente il 30 aprile di un anno fa erano entrate in vigore le nuove norme antiriciclaggio che avevano impresso una stretta sui pagamenti in contanti e sull'utilizzo di assegni. Sono state però delle norme restrittive che non hanno avuto una lunga vita perché poi in giugno il governo ha fatto marcia indietro. Noi oggi vorremmo fare un punto della situazione molto pratico perché molti ascoltatori ci chiedono di aggiornarli su questo argomento visto che nel nostro paese l'assegno è largamente utilizzato. E allora rifacciamo un punto sulla normativa, cosa è rimasto anche di quell'impianto che era stato allestito dal punto di vista legislativo un anno fa, quindi un punto su tutta la normativa che disciplina l'emissione e l'utilizzo di assegni con Benedetto Santa Croce che è un esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, ma è anche professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma. Professor Santa Croce, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, in un paese che privilegia il contante e che tenta ogni via per diffondere la cultura dell'utilizzo di bancomat e carta di credito, l'assegno come mezzo di pagamento è ancora molto diffuso? Ma direi di sì, direi che dalle statistiche l'assegno è molto molto diffuso e secondo me anche abusato, insomma. Quindi il problema di andare a definire esattamente il quadro normativo è sicuramente importante, specialmente per quello a cui accennava su questo discorso di questo valzer che c'è stato tra il 30 di aprile e il 25 di giugno. Due sono le misure su cui c'è stato la retromarcia, nel senso che al 30 di aprile è entrato in vigore un limite di importo per l'emissione di assegni liberi, quindi trasferibili, fino a 5.000 euro, siamo ritornati poi dal 25 di giugno a 12.500 euro, che è il limite attuale. Dall'altra parte l'altra modifica è sulle girate, in cui si è avuta una stretta in quel periodo tra il 30 di aprile e il 25 di giugno, in cui ogni girata doveva essere accompagnata dal codice fiscale del soggetto che effettuava la girata, adesso questo non c'è più, insomma. Tra l'altro ho dei dati proprio a proposito della diffusione di cui parlavamo poco fa. Nel 2007 risultavano in calo del 6% gli assegni in circolazione nel nostro paese rispetto al 2006, erano 426 milioni di pezzi, definiamoli così, per un valore di 1 miliardo e 161 milioni di euro. L'importo medio di ogni assegno in circolazione in Italia è di 2.700 euro, quindi viaggiamo anche molto al di sotto delle soglie di cui stiamo parlando. Ma tornando ad un anno fa, qual era stata l'origine di questi provvedimenti e lo scopo, dottor Santa Croce? Ma lo scopo era proprio quello di evitare in qualche modo che l'assegno fosse utilizzato come il contante, che quindi fosse difficile poi andare a tracciare i movimenti. Dall'altra parte la volontà era proprio quella di ridurre al massimo l'utilizzo del contante e quindi dare luogo ad una tracciabilità più spinta per tutti quelli che sono gli strumenti di pagamento. E quindi la stretta sul limite, cioè la riduzione da 12.500 a 5.000 euro per quanto riguarda il pagamento in contanti e quindi poi l'utilizzo di assegni liberi, rientrava in questa logica di passare, di favorire, di spingere sicuramente ad utilizzi tracciabili, quindi oltre agli assegni sicuramente si voleva andare verso le carte di credito, le carte di debito. Andiamo allora alle indicazioni pratiche di comportamento per tutti gli interessati. Vado in banca a ritirare un libretto di assegni, intanto devo pagare qualcosa? Ecco, qui il meccanismo è di questo tipo: se io non chiedo niente, chiedo solo l'emissione del libretto d'assegni, mi viene dato un libretto d'assegni con già impostata la clausola di non trasferibilità e questa clausola di non trasferibilità ovviamente non mi dà luogo a nessun pagamento. Se invece io chiedo, perché voglio utilizzare questi libretti assegni anche per emettere assegni girabili, quindi con la possibilità di girarlo ad altri soggetti, a questo punto devo chiedere espressamente alla banca questa emissione e in quel caso per ogni modulo di assegni pago sostanzialmente 1,50 euro, cioè sostanzialmente vado a pagare per un blocchetto di 10 assegni 15 euro. A proposito della girata, ricevo per un pagamento un assegno e per fare un altro pagamento voglio girare quello che ho ricevuto. Allora che cosa devo fare? Devo indicare il mio codice fiscale come mi sembra che la normativa indicasse un anno fa? Allora, praticamente devo fare tre cose. Primo, devo vedere se l'assegno è girabile, perché se c'ha già la clausola di non trasferibilità non posso assolutamente girarlo. Secondo, devo vedere l'importo dell'assegno, perché se l'assegno è pari o superiore a 12.500 euro non posso girarlo a nessuno. Terza condizione, se ho queste due condizioni, quindi immaginiamo di aver ricevuto un assegno libero, quindi senza clausola di non trasferibilità indicata e con un importo inferiore a 12.500 euro, posso trasferirlo indicando chiaramente la mia firma di girata, non ho più bisogno di inserire il codice fiscale. Quindi questa norma restrittiva è stata abolita dal 25 giugno del 2008. C'è qualche modifica per la disciplina degli assegni emessi, come si dice in gergo, all'ordine del traente, cioè i cosiddetti assegni a me medesimo? Ecco, questo è molto importante perché molto spesso anche gli operatori chiedono, specialmente quando si tratta di pagamenti non del tutto chiari, chiedono sostanzialmente di fare un assegno a me medesimo in pagamento delle transazioni. Ecco, questo non è più possibile. Io l'assegno a me medesimo lo posso fare solo nei confronti di una banca che evidentemente mi va a cambiare quell'assegno o va ad gestire quell'assegno attraverso il mio conto corrente. Quindi quelli che prima erano solitamente delle forme di pagamento a me medesimo, che in fondo erano dei pagamenti anonimi da un certo punto di vista perché poi potevano essere girati tranquillamente, in questo caso debbono essere necessariamente effettuati solo e unicamente nei confronti della banca che lo utilizza o per essere cambiato o sostanzialmente per essere versato sul conto. Santa Croce, cosa può succedere a chi nel periodo transitorio un anno fa ha emesso un assegno non in regola di un importo magari superiore ai famosi 5.000 euro fissati dalla legge, soglia che poi è stata estesa di nuovo? Corre il pericolo di qualche sanzione? Ecco, questo è un problema, nel senso che questo è il Ministero dell'Economia in una sua circolare ha ribadito questo fatto, cioè se io ho commesso una violazione tra il 30 di aprile e il 25 di giugno, quindi ho emesso un assegno non rispettando queste regole, le sanzioni sono ancora applicabili, perché siamo in un tipo di normativa in cui l'illecito rimane sanzionabile in ragione del momento in cui ho commesso questo comportamento. Quindi un'attenzione a tutti gli ascoltatori nell'andare a verificare, a ricontrollare le operazioni fatte in precedenza. Grazie a Benedetto Santa Croce per essere stato con noi a Soldi e Dintorni. Buona giornata. Grazie. A presto. E allora, grazie Deborah, tra poco alle 12 come di consueto Salva Danaio. Salva Danaio, ritorniamo su un altro grandissimo caso di risparmio tradito per molte famiglie italiane. A che punto sono quelli che cercano di recuperare gli investimenti in titoli Lehman Brothers, quindi polizze vita ma anche obbligazioni? Le 8:32, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Il leader del PD Franceschini lancia un'idea per affrontare la crisi, una tassa una tantum del 2% per i redditi oltre i 120.000 euro. L'obiettivo è trovare nel 2009 500 milioni di euro da destinare alla lotta alla povertà. La proposta bocciata dal PDL piace a Bossi. E ieri sera, incontrandoli a cena, il premier Berlusconi ha rinnovato l'appello ai banchieri perché continuino a fare il loro dovere e non stringano i cordoni del credito di fronte alla crisi economica. Il periodico statunitense Forbes ha pubblicato la lista dei più ricchi al mondo. Il primo della lista è il fondatore della Microsoft, Bill Gates, con 40 miliardi di dollari di patrimonio, seguito da Warren Buffett con 37 miliardi e dal messicano Slim con 35 miliardi di dollari. Il primo italiano è proprio Silvio Berlusconi e famiglia, precisa Forbes, al 70° posto con un patrimonio di 6,5 miliardi di dollari. A seguire 71° Leonardo Del Vecchio, presidente di Luxottica, con 6,3 miliardi di dollari. E infine il calcio, l'Italia è fuori dalla Champions League. Ieri sono state eliminate anche Inter e Roma. I nerazzurri hanno perso 2-0 a Manchester nonostante una buona partita, mentre la Roma è stata eliminata ai rigori dall'Arsenal. I giallorossi hanno vinto 1-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari, stesso risultato ribaltato rispetto all'andata, poi dal dischetto l'errore finale di Tonetto. Ed è il momento, a questo punto, come di consueto, del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio alla cena ieri sera di Berlusconi con banchieri e assicuratori. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Ieri sera Silvio Berlusconi ha riunito banchieri e assicuratori italiani per convincerli a dare una mano alle imprese. Una buona cosa. Specialmente adesso che il contribuente dà una mano con i cosiddetti Tremonti Bond alle banche per farle uscire dalle secche di una crisi, quella dei titoli tossici, che non è certo colpa della piccola impresa o delle stesse famiglie. Rischi così elevati imprenditori normali, artigiani, commercianti mai li avrebbero presi in considerazione. E guadagnano, in molti casi, meno dei banchieri. Sul Sole 24 Ore di oggi pubblichiamo una serie di testimonianze degli operatori economici ai quali la propria banca, dalla sera alla mattina, ha tolto gli affidamenti. Scrive uno di loro: «Mi hanno negato l'anticipo delle fatture già emesse. È proprio vero il detto popolare che la banca ti dà l'ombrello quando c'è il sole e te lo ritira quando piove. E da qualche parte piove a dirotto. Ci sono banche che si comportano meglio, questo bisogna dirlo, ma perché non vi è un codice di condotta minimo che eviti ai clienti di lunga data di sentirsi all'improvviso un semplice numero di conto corrente per giunta sospettato di non avere le carte in regola? Buona giornata». Grazie, buona giornata e a domani, direttore. Sono le 8:35, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Oggi a Trieste si apre, andrà avanti qualche giorno, la 5ª conferenza nazionale sulle politiche antidroga. Saluto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno. Lei ha la delega, tra l'altro, anche proprio alla droga. Senta, io voglio entrare subito, come si suol dire, con i piedi nel piatto, perché mi ha colpito ieri sui giornali, visto che si sta parlando anche a Vienna di politiche antidroga a livello mondiale, un appello che è stato fatto da 500 economisti, dicendo da 10 anni, negli ultimi 10 anni, la politica repressiva sul mercato della droga mondiale ha fallito. Se è vero che la diffusione altissima, il fatturato del narcotraffico è di oltre 300 miliardi di dollari l'anno, sono 200 milioni consumatori in tutto il mondo, e allora perché non rispolverare la vecchia dottrina del antiproibizionismo? Torniamo alla liberalizzazione, magari con una provocazione, ma queste politiche repressive hanno fallito. Lei che ne pensa? Sì, ha colpito anche me, perché a Vienna c'era riunito tutto il mondo e non c'è stato paese del mondo non solo che non abbia raccolto questa provocazione, ma neanche che l'abbia preso come una cosa che abbia un minimo di serietà. Perché non scherziamo, io non so chi siano i 500 che abbiano firmato, ma il loro ragionamento è: la droga fa male, la droga uccide, la droga ha effetti perversi, quindi la liberalizziamo e i soldi che prendiamo dalla vendita della droga li usiamo per curare quelli che, usando droga, si cronicizzano, hanno malattie invalidanti, rovinano se stessi e la loro famiglia. Ma tutto questo è demenziale e parte da una premessa totalmente sbagliata, perché proprio le Nazioni Unite ieri si sono fatte carico di un'analisi dei successi ottenuti nel contrasto alle tossicodipendenze, che per fortuna sono un problema che non dilaga ed è tenuto sotto controllo proprio dallo sforzo congiunto di tutti i paesi del mondo, dagli Stati Uniti, dalla Russia, alla Cina, all'Australia, al Giappone, ai paesi africani, ai paesi asiatici, che hanno ben presente come la droga sia un qualcosa di perverso per gli effetti micidiali che dà ai consumatori e per gli effetti che provoca alle persone terze. Però, sottosegretario, il ragionamento era anche di questi economisti, sono economisti di Harvard, a dire in realtà, se vediamo la diffusione, insomma, purtroppo la droga si acquista anche su internet ormai, c'è fuori dalle scuole, c'è... La droga, dal 1909, quando la comunità internazionale ha fatto le prime leggi, ad oggi il consumo della droga nel mondo è crollato, Siamo partiti nel 1909 quando interi continenti come la Cina avevano avuto decine di milioni di morti dal fatto che la droga era legale, veniva commercializzata, veniva pubblicizzata, e la società internazionale, proprio per il pericolo derivante dalle sostanze, con l'unanimità, perché l'ho detto, la cosa impressionante è che non c'è stata una persona della comunità internazionale che ieri a Vienna abbia soltanto ripreso anche incidentalmente questo appello, poi firmato da chi? Io ieri ho letto queste interviste di questo signore, ma dice cose che non stanno né in cielo né in terra. Scusi, se ci fosse una sostanza che può curare il cancro, secondo lei si potrebbe dire la sostanza che produce il cancro la lasciamo vendere tranquillamente e poi il ricavato della vendita del prodotto che produce il cancro lo usiamo per le terapie per curare i malati di cancro? La provocazione è stata fatta a dire, vedendo la vita di tutti i giorni, lei dice il consumo è crollato, però insomma il problema della droga, il problema che coinvolge i giovani, che coinvolge non solo i giovani, c'è. E quindi... ma noi siamo preoccupati perché quando 0,1 della popolazione italiana, 0,1, ha problemi di droga, problemi di serie di droga, certo che siamo preoccupati, ma vuol dire anche che il 99,9% degli italiani non c'ha problemi di... droga in maniera sistematica, certo il 2, il 3, il 4% fra cocaina, eroina, cannabis, ma il 96% no. Anche i giovani, certo che c'è un pericolo della droga, ma non tutti i giovani delle scuole, come qualcuno dice, sono drogati, pigliano eroina, pigliano cocaina, c'è una percentuale sì, allora bisogna fare più informazione, più educazione, più prevenzione, operare in famiglia, operare nella scuola, operare nella società sportiva, operare in parrocchia, per fare capire al ragazzo che se pigli l'ecstasy ci puoi morire, che se cominci a farti di eroina e di cocaina ti bruci il cervello, arrivi a 18 anni già con, come verrà dimostrato in maniera autorevole anche in questa conferenza dai maggiori scienziati mondiali, arrivi ad avere danni permanenti a te stesso e alla tua salute. Queste sono le cose serie da cui mettere in guardia i giovani. Senta, lei si era distinto per proporre, credo, i test antidroga per tutti i lavori un po' a rischio, cioè quei lavori che, per esempio, lei lo vorrebbe, credo, anche per quelli che guidano i camion? Non è che mi sia distinto io. C'è una legge del 1990 in vigore in Italia che impone alle professioni a rischio, impone i test antidroga. Però non vengono fatti, evidentemente. No, vengono fatti perché finalmente, l'anno scorso, ho fatto approvare dalla conferenza Stato-Regioni il regolamento attuativo che mancava, e come la legge impone, i camionisti, quelli che guidano i pullman, quelli che guidano i pulmini dei bambini, i piloti d'aereo, come nei paesi civili, come negli Stati Uniti, è obbligatorio il test, e se uno viene trovato drogato, cocaina, eroina, quello che sia, è obbligato a cambiare mansione. Vorrei sapere quale degli spettatori sarebbe contento di salire su un aereo o su un pullman o affidare il suo bambino quando va a scuola a un conducente che si droga. Le chiedo, perché non estendere per esempio questo a chi ha i lavori dove si controllano i soldi, per esempio, cioè, se molti dicono il problema anche o nelle banche o nelle borse o i colletti bianchi, insomma gente che gestisce anche la finanza, gestisce i mercati, gestisce i soldi della gente. Intanto lo stenderemo in via preventiva a chi vuole la patente, il patentino, facendo passare il principio che chi guida, gli viene dato un automezzo, va per strada. Vabbè, quella però è un'altra... Questa è una cosa importantissima, perché in Italia abbiamo centinaia di morti ogni anno che vengono provocati da persone che guidano o abusando dell'alcol o sotto l'effetto delle sostanze. Quindi fissare il principio che tu guidi soltanto quando non fai danni a te stesso o agli altri, una cosa assolutamente importante. Poi c'è questo fenomeno, lo conosciamo benissimo, di imprenditori, di professionisti. Basta andare nelle comunità a vedere i quarantenni crollati per la cocaina dopo aver rovinato se stesso, rovinato la propria famiglia, rovinato i propri clienti, pensando di poter convivere con la cocaina e crollati sotto il peso degli effetti nocivi di questa sostanza. Non possiamo estendere, per evidenti ragioni anche economiche di bilancio, i test obbligatori a 56 milioni di persone. Sì, lei tra l'altro disse, ammise anche con una relazione che è anche in Parlamento, nonostante fu fermato quel servizio famoso delle Iene, però insomma la relazione c'è che anche nel Parlamento circola droga. No, io credo due cose, che la roba delle Iene era risibile e offensiva, perché dire che un terzo dei parlamentari è drogato è una roba che non sta in cielo in terra. Come se venisse in redazione da voi a dire che un terzo dei vostri giornalisti di 24 ore drogato, ma non esiste. Beh, loro dicevano di avere i test. Comunque, insomma, è storia. Sono stati condannati, non hanno fatto nessuno, sono arrivati con dei tamponi che dal punto di vista scientifico non dimostrano nulla e hanno fatto il solito terrorismo per dire il Parlamento è fatto di drogati. Questo è un discorso da respingere. Che poi ci siano, come fra i giornalisti, fra gli imprenditori, fra i professionisti, anche i parlamentari, che fanno uso di sostanze e scoprire l'acqua calda, perché purtroppo la droga colpisce i poveri a Scampia, a Napoli, nei quartieri degradati, e come abbiamo visto dai giornali colpisce anche le più famose famiglie italiane, dove ci sono personaggi che evidentemente pensavano di poter convivere con la cocaina, poi sono trovati sui giornali con situazioni drammatiche che hanno travolto la loro vita. Sottosegretario, un'ultima domanda: ci sono alcune associazioni, comunità che non parteciperanno a Trieste che dicono ma insomma non è stata salvata la pluralità di questo incontro, dicono si farà poco per esempio sul fronte della cosiddetta riduzione del danno, per esempio in Europa ci sono le cosiddette in alcuni paesi stanze del consumo dove viene data la droga controllata di Stato. Lei è pregiudizialmente contrario a questo tipo di iniziative in Italia? A Vienna la comunità internazionale, il documento approvato per i prossimi 10 anni, ha cancellato i temi della riduzione del danno sotto pressione degli Stati Uniti, della Cina, del Giappone, anche col nostro consenso, perché era un termine equivoco, nel senso che se riduzione del danno vuol dire che per recuperare un tossicodipendente si può usare il metadone a scalare, si può dare le siringhe perché eviti l'AIDS, niente da dire. Se invece riduzione del danno, abbiamo detto a Vienna, vuol dire cronicizzazione, stanze del buco, dagli eroina finché non muore, siamo assolutamente contrari e con grande soddisfazione abbiamo visto che questa posizione dell'Italia è diventata a Vienna la posizione di tutta la comunità internazionale. Alla conferenza parteciperanno 1200 operatori del pubblico e del privato, ci saranno tutti, salvo posizioni marginalissime di quelli che sono su una posizione che non trova riscontro, torna a dire, a livello di comunità internazionale, neanche a livello di comunità scientifica. Noi abbiamo invitato tutti, poi se qualcuno non vuole partecipare, ma sarà una cosa molto seria e approfondita, e il confronto sarà aperto a tutti coloro, e sono tantissimi, dalla FICTA, CNCA, alle comunità che vogliono, ai servizi pubblici che si interessano del problema. Domanda flash, visto che anche il Presidente della Camera, Fini, da Fazio, Ammise, lei uno spinello? Mai. No, guardi, io ho avuto la fortuna semplicemente di non incominciare mai a fumare e devo dire di essere abbastanza soddisfatto perché non ho guadagnato in salute e anche in soldi non spesi. È stata una cosa casuale, ma certe volte è abbastanza semplice per un giovane, no? Basta non incominciare a tenere atteggiamenti che gli danno solo danno alla sua salute e gli danno danni economici. Va bene, non è mai capitato, insomma. Va bene, la ringrazio, mai capitato. La ringrazio, sottosegretario Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, da oggi a Trieste, la conferenza sulle politiche antidroga, la quinta nazionale. Le 8:48 minuti, non spie, non delatori, ma cittadini che hanno il senso civico. Con questo slogan, il comandante dei Vigili Urbani di Napoli ha detto: cari cittadini, segnalateci a Napoli chi parcheggia per esempio in seconda fila, noi faremo gli accertamenti e nel caso faremo le multe. Luigi Sementa, comandante, buongiorno. Buongiorno a lei. Comandante dei Vigili Urbani, non spie, cioè non è una questione di fare il delatore, dire il mio vicino di casa, però un pochino suona così, insomma. No, assolutamente no, non ho mai detto questo, la delazione non appartiene alla nostra democrazia, a partire ad altre epoche. Quindi io, riflettendo con un giornalista del Mattino, la settimana scorsa avevo trovato nella posta, in visione, che mi era stato portato in visione, una busta di una raccomandata di un tizio che si firmava con nome e cognome e allegava a questa sua lettera una quindicina di fotografie. Era disperato perché trovava in una certa strada di Napoli le macchine in doppia fila. Io ho fatto contattare questa persona, il quale con tantissima disponibilità si è presentato da noi, quindi l'abbiamo identificato, ha riconosciuto le fotografie, erano fotografie non digitali, quindi scattate al momento, quindi abbiamo accertato esattamente il giorno e l'ora. E allora, a questo punto, siccome è una segnalazione, è un atto di impulso che abbiamo ricevuto da parte di un cittadino, Noi abbiamo, io stesso ho firmato, io personalmente ho firmato le contravvenzioni di contestazione nei confronti di questi soggetti. E ha invitato, fate come lui, insomma, ha detto fate come lui, ma non come delatori, perché onestamente questo no, mai detto una cosa del genere, non vi è stato alcun appello alla cittadinanza e, come lei giustamente diceva, è il senso civico lo devono avere tutti, quindi il coraggio tutti lo devono avere se vogliamo fare qualcosa per la collettività. Senta, al di là delle uniformi. Segnalazioni ne sono arrivate dopo questo cittadino? Una sola. Una? Ah, uno che ha detto. Una sola via email al sito della Polizia Municipale. Invece sono arrivate tantissime... così, ma come ne arrivano tutti i giorni, tantissime segnalazioni anonime, ma che trattano un po' tutto lo scibile, tutte le competenze della polizia municipale, cioè, naturalmente delle segnalazioni che io cestino tranquillamente. Allora, comandante, mi faccia chiedere al professor Marco Ponti, che saluto, insegna economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Professore, buongiorno. Il dramma, glielo dico così proprio volutamente, della seconda fila, del parcheggio in seconda fila nelle grandi città, che quanto incide sul traffico? Incide in modo molto pesante, perché non è solo il danno diretto di quelli che rimangono bloccati, ma il danno maggiore è che non viene occupata la corsia di destra, anche nelle strade dove si potrebbe occuparla, per favore di trovare macchine ferme in seconda fila, quindi la capacità complessiva della rete stradale diminuisce di molto. Io trovo che nei termini in cui ne ha parlato il comandante, quel tipo di denuncia, non anonimo, documentato, eccetera, e non rivolta a un singolo individuo, ma a un fenomeno, con qualche prudenza mi sembra condivisibile, perché queste persone fanno un sistematico danno alla collettività, quindi se qualcuno denuncia questa situazione e poi la vigilanza urbana interviene con la dovuta prudenza, mi sembra un fatto nel complesso positivo, se controllato, come diceva il comandante. Questo sì, anche perché, comandante, le chiedo, leggevo proprio sul Mattino di recente secondo il municipio di Napoli ci sarebbero poi un 40 milioni di euro di multe, allora, non riscosse, cioè andate in prescrizione. Io ho assunto l'incarico il 1 settembre del 2008, perché provengo dall'Arma dei Carabinieri, quindi ho avviato un'indagine interna e mi sono reso conto che una struttura della Polizia Municipale non faceva fino in fondo il proprio dovere, ed era la struttura delegata alla gestione e alla trattazione delle contravvenzioni. Ora, solo su un segmento, cioè solo sulle contravvenzioni, quelle relative a quelle non contestate al momento e quindi notificate successivamente, vi era stata, come dicevo, una cattiva gestione, e quindi nel giro di 5 anni abbiamo accertato, io ho fatto anche una denuncia all'autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti, l'amministrazione è stata da me sollecitata e quindi è istituita una commissione interna, quindi abbiamo riscontrato un ammanco di 40 milioni di euro. Accidenti. Naturalmente si rifarà nei confronti di chi ha sbagliato. E chi paga? Cioè, mica pagheranno... Pagheranno, guardi, l'assurdo è questo, che noi abbiamo... bastava fare un minimo accertamento, sedersi dietro al computer, sfruttare al meglio le possibilità informatiche e contestare ad una tizia, ad esempio, che era in pole position, che in 5 anni ha così accumulato quasi 1500 contravvenzioni. 1500, e ne ha pagate zero? Ne ha pagate solamente 7.000 euro, l'equivalente di 7.000 euro, però è stata così graziata per altre 52.000 euro. 52.000 euro? Che cosa significa? Napoli, che faceva, scusi, per 52.000? Parcheggiava in doppia fila. È in pieno centro a Napoli, nella zona collinare. Quindi questa attività avviata a metà settembre si è conclusa ai primi di gennaio con molto puntuale. Resta da capire davvero chi pagherà, comandante, perché a chi glieli chiediamo questi 40? vi sono aspetti sia penali che contabili, quindi qualcuno, i soggetti sono stati individuati. Tenga conto che le contravvenzioni per divieto di sosta a Napoli all'anno la Polizia Municipale ne eleva quasi 450.000. 450.000 e l'anno scorso l'attività dei carri gru ha portato alla rimozione per macchine in doppia fila o in divieto di sosta, sono state prelevate quasi 4.000 autovetture. Accidenti. Sì, speriamo che questi soldi vengano recuperati, questi 40 milioni, perché sono un bel bottino. Dell'amministrazione Certo. Io vi ringrazio, grazie comandante Sementa, comandante della Polizia Municipale di Napoli, così come il professor Marco Ponti, docente al Politecnico di Milano. Ci fermiamo qui anche per oggi. La mail è 24mattino@radio24.it. Ringraziamenti ad Alessandro Marco Tulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara parla dell'attualità politica, la nota politica, parliamo con l'elefante. Noi ci ritroviamo domattina.